English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Anno nuovo, stagione nuova, ma torna anche il nostro English 24, come sempre alla stessa ora il sabato verso sera. Per tenere in forma il nostro inglese stiamo insieme circa un quarto d'ora, poco meno, e oggi siamo io, Giulia e un sacco di bei ragazzi. No, in realtà non è esattamente così, non li abbiamo in studio con noi, ma parliamo di una serie televisiva della quale Giulia è una fan scatenata. Mi ha attaccato questa mania e abbiamo deciso di dedicare a questi attori straordinari, bravi oltre che belli, la prima puntata della nuova stagione di English 24. Giulia, confessa, di che serie si tratta? È Spartacus. Io ho visto il primo episodio per caso, che è l'episodio numero 5, Shadow Games, e l'ho visto e ho detto no, ma che chicciata è, ma che roba orrenda, eccetera, soltanto che poi ne ho guardato 10 minuti e basta, da lì è stata una addiction. Poi la cosa bella è che siccome va in onda su Sky 1, si può guardare anche in inglese. Quindi i nostri ascoltatori potrebbero fare l'esercizio fantastico di vederlo in inglese, anche perché alcuni attori hanno una pronuncia fantastica, oltre a essere degli attori bravissimi. Com'è nata questa serie televisiva? Noi abbiamo cercato un po' le interviste, i protagonisti, in particolare abbiamo trovato due dei creatori, l'autore e il produttore, che sono Rob Tapert e Stephen DeKnight. Sentiamo cosa hanno raccontato. I sat down with Stephen at lunch and said, Stephen, how much do you know about history? And he said, oh, very little. And I said, great, because I actually don't care about it. This is grounded in history, but none of us are saying that this is history. At the end of the day, we are making a show that is entertaining. The great thing about Spartacus is before he broke out from the gladiator training school, very little is known about him. There are only fragments, and they're conflicting fragments. So we looked at all those fragments and took what I thought was the best elements of them. Spartacus, that is not my name. Giulia sorride perché ha sentito la voce di Spartacus e già ripensa a questo straordinario attore. Però è sempre bello sapere come nascono le idee. A volte basta un pranzo, uno scambio di battute durante un pranzo e nasce una serie TV, ad esempio. Sì, perché poi insomma di Spartaci al cinema o alla televisione ne abbiamo visti tanti, quindi evidentemente insomma è ancora una storia che stimola molti produttori. Infatti questo produttore dice I sat down with Stephen at lunch, come credo appunto, come dice Marta, ma anche a noi giornalisti capita spesso che magari un pranzo è poi lo spunto per avere davvero, se non una notizia, un'idea per una storia. Quindi to sit down with somebody at lunch vuol dire proprio più che semplicemente pranzare, sedersi a un tavolo, e si presume che oltre a mangiare si faccia anche qualcos'altro, si parli, ci si stimoli a vicenda. E noi potremmo immaginare che uno dei due fosse particolarmente appassionato di storia e quindi abbia avuto questa idea. Non è esattamente così. Perché quindi Rob, che è stato un po' la miccia che ha innescato questo fantastico Spartacus, io lo ringrazierò tutta la vita. Ecco, Rob ha invitato il suo amico Stephen e la prima domanda che gli ha fatto è How much you know about history? Quindi quanto sai di storia? Sapete la differenza tra story e history? Story per noi in italiano è la stessa cosa, storia, storia, invece in inglese è appunto la storia, nel senso la storia da raccontare. It's a story, history è la storia con la S maiuscola. E l'altro gli ha risposto very little, molto molto poco. E lui ha risposto great, because I actually don't care about it. Benissimo, perché non me ne importa nulla. Quindi era proprio un modo spiritoso per dire partiamo da una vicenda storica, perché Spartacus in qualche modo è vissuto veramente nel 73 prima di Cristo, però poi ce ne freghiamo un pochino della storia. Sì, anche perché non è una lezione di storia, è spettacolo, è grande spettacolo, azione, anche un po' di scene, un po' se lui aveva in mente tanto, ma non esattamente una lezione di storia. Sì, e usa questa espressione this is grounded in history. To ground, naturalmente sappiamo, è può essere anche il pavimento, il terreno, quindi to be grounded in something vuol dire avere le radici dentro qualche cosa. Quindi è chiaro, come dicevamo, la miccia è storica, però at the end of the day, ecco, qui non dobbiamo tradurre letteralmente. Se traduciamo letteralmente significa alla fine della giornata, non è quello, è quello che è l'espressione che noi in italiano per esempio usiamo in fin dei conti. Ecco, in fin dei conti we are making a show that is entertaining, come diceva Marta, facciamo uno show che deve divertire, non spiegare la storia. Peraltro una storia poco conosciuta, quindi le ricerche storiche non sono neanche state particolarmente fruttuose in realtà. Sì, perché dice, se uno è onesto anche dal punto di vista storico, vede che ci sono in realtà fragments, cioè frammenti di storia, and conflicting fragments, quindi frammenti di storia che in realtà tra di loro non sono, sono spesso in conflitto, cioè versioni diverse. E quindi we looked at, to look at sappiamo che vuol dire guardare a, all those fragments, li abbiamo guardati con attenzione, poi abbiamo fatto un po', abbiamo preso quello che ci conveniva, ma soprattutto hanno preso Andy Whitfield. Allora ascoltiamo già Andy Whitfield, sì. Perché abbiamo sentito anche la voce di questo straordinario attore, questo bellissimo attore, è il protagonista e anche lui dice, vabbè, non si sa bene, non si sa tanto della storia di Spartaco, allora come ha affrontato lui il personaggio? Ascoltiamolo. I mean, what's good about the history of Spartacus is that nobody really, really knows what happened. You know, like, certainly until he was out there, 73 BC to 71 BC is kind of all you know about him and the effect he had on the Roman Republic. So, we've got a lot of leeway to tell a story and make it really meaty and really get into the characters a bit more than I think you've seen before. The thing with this is every episode they have to bring a different style of fighting. There's like a UFC episode, there's more martial arts, they've kind of really brought it to have something for everyone. Eccolo qua, beh certo, anche lui dice una cosa bella della storia di Spartaco è che nessuno sa realmente cos'è stato di lui, non si sa davvero niente di preciso su Spartaco, quindi si può in realtà andare molto di fantasia, diciamolo. Sì, credo che insomma per appunto produttori, registi, e tra l'altro tra i produttori c'è Sam Raimi che insomma conosciamo tutti. E devo dire, c'è molto sangue in Spartacus, beware, tant'è che il sottotitolo è Spartacus Blood and Sand, sangue e sabbia. Però è molto grafico, molto digitale, sembra quasi un fumetto, quindi è vietatissimo ai minori di 18 anni, va in onda molto tardi, però don't worry, perché appunto non è poi così spaventevole. E poi, come dice Andy Whitfield, nobody really knows what happened, nessuno sa veramente cosa sia successo a Spartacus, se non che si è vissuto la sua vita intensa, è stata tra il 73 BC, che sta per Before Christ, prima di Cristo, until 1 BC. E lì, in quel periodo, i produttori hanno giocato un po' di fantasia. Hanno giocato di fantasia creando questo character che ancora una volta, però è la prima puntata della stagione, quindi possiamo dirlo, ancora una volta character non significa carattere, ma significa personaggio. È uno dei falsi amici che incontriamo più spesso. E appunto hanno deciso di fare qualcosa di entertaining, come dicevano i creatori, con tanti ingredienti diversi. E tra l'altro ogni episodio, quasi ogni episodio, ha un regista diverso, perché poi è una serie di 13 episodi, insomma se lo possono permettere sono quasi dei mini film. E quindi Andy dice appunto every episode they have to bring a different style, quindi ogni episodio in effetti ha uno stile un pochino diverso. Vi avverto che ci sono anche molte scene osè, chiamiamolo così, con questi corpi splendidi alla vista di tutti, ma maschile e femminile, ma poi è molto vero, credo che ci dia uno scorcio di quello che dovevano essere gli aspetti più su cui abbiamo più tabù della vita degli antichi romani, che insomma non erano proprio degli angioletti. A proposito di angioletti, incontriamo un altro degli attori che noi invece ci ricordiamo sempre davvero con un'aria un po' tenera, un po' buffa. Lui si chiama John Hannah, un attore che conosciamo benissimo, che abbiamo visto in tanti film inglesi. Ebbene, in Spartacus fa un ruolo molto diverso da quelli a cui siamo abituati. Allora, in un'intervista che lui stesso ha messo sul suo canale di YouTube, ha raccontato un po' come ha affrontato il personaggio e soprattutto se lui assomiglia di più al personaggio delle commedie britanniche, tenere e dolci, che aveva interpretato in passato, o se assomiglia di più a questo ruolo così intenso e così violento che c'è in Spartacus. Sentiamo come ha risposto John Hannah. Well, who's the real you then, John? I mean, is it the drip we see in the rom-com, or is it the destroyer we see in Spartacus? Is it the destroyer? Okay. Tough guy, yeah. Which one? Tough guy, yeah. Now, this Spartacus show, it's an amazing program, but they're filming another series now, but you're not there. Well, I'm dead. Oh, no! Don't you hate it when that happens? I did actually hate it when that happens. With American shows, probably with most British shows as well, you get the first couple of scripts and, you know, you base your judgment on that, you go in, you do the script, and then you don't know what's coming next. So the first two or three episodes, I'm thinking, well, maybe me and Sparty will become buddies and I'll run away and join him in the second series, you know. I can see this going on for 5 years. I could get, you know, a big car like yours. But I was dead after. Avete sentito la differenza nell'accento? Perché abbiamo sentito tutti i protagonisti e i creatori, tutti americani, e qui John Ann e anche gli intervistatori, ebbene l'accento è ben diverso. Molto British, e tra l'altro John Ann credo che sia scozzese. Perché proprio si sente da alcuni... insomma, ce lo ricordiamo, ve lo ricorderete tutti, quando recita la splendida poesia di Odin al funerale, in Quattro matrimoni e un funerale, quando fa il fidanzato per bene, che proprio perché per bene non viene rifiutato in Sliding Doors. Quindi who is the real John? Perché in Spartacus John Hanna è il padrone di questo training, di program dei gladiatori, il Ludus, ed è tanto perfido quanto i suoi gladiatori, anzi molto di più. E quindi who is the real John? E lui dice, beh, è il destroyer, it's the tough guy, l'uomo forte, l'uomo duro. Ma lo dice ovviamente ridendo, perché è molto spiritoso. John Hanna si prende molto in giro. Si prende molto in giro anche perché gli chiedono, ma stanno facendo un'altra serie, perché tu non ci sei? E quell'intervistatore, che voi dovreste vederlo su YouTube perché è veramente una barzelletta, una specie di Elton John biondo, gli dice, you're not there. E lui risponde, well, I'm dead, perché sono morto. Questo è perché nell'ultimo episodio di Spartacus purtroppo Battiato muore perché lo ammazzano i suoi gladiatori, gliene ha fatte troppe. E il presentatore gli dice, ma non ti dispiace? Don't you hate when it happens? Che è, no, è un'espressione come, non so, quando uno dice, magari quando ci resta la cicca appiccicata sotto la suola, e ci dice, ma è una cosa veramente fastidiosa, no? Don't you hate when that happens? Quindi non ti sembra terribile quando ti fanno morire? E lui dice, well, yeah, si mette a ridere, però insomma si sa. Sapeva per lo script della serie, si sapeva purtroppo che la prima serie sarebbe finita con la morte del personaggio di John Hanna. Anche se lui dice, in realtà io l'ho saputo poco a poco, perché ti danno gli script, le sceneggiature mano a mano, e a un certo punto ho scoperto che speravo di andare avanti, ma ho scoperto che sarei morto. E tra l'altro qui c'è una bella espressione carina, lui dice, after the first 2-3 episodes I'm thinking, cioè penso tra me, maybe me and Spartacus we become parties, naturalmente party è la festa, ma quando si dice parties è insomma due amici, come il senso è due persone che vanno a una festa insieme, quindi due amiconi, poi naturalmente non succede. Sì, tra l'altro ti racconto questo, che John Hanna vive a Richmond, dove vive mia sorella, vicino a Londra, e fino a un anno fa si incontravano e scambiavano ricette di cucina. Adesso mia sorella, anche lei ha visto Spartacus ed è terrorizzata quando vede John Hanna. Questo per dire veramente che forse, al di là della bellezza, e lì non c'è gara con Andy Whitfield, John Hanna è veramente bravissimo, cioè fa il cattivo, il destroyer, il tough guy in un modo fantastico. Noi abbiamo finito il nostro tempo per il nostro English 24, ma allora abbiamo un po' di consigli da dare. Il primo è quello di ascoltarsi questo Spartacus in lingua originale, yes, perché così sentite queste lingue straordinarie, queste voci bellissime degli attori. Il secondo consiglio è il nostro English 24 in edicola. Il terzo consiglio è la nostra pagina di Facebook. Iscrivetevi e mandateci tutti i suggerimenti su quello che vorreste che succedesse nella prossima stagione di English 24. O di Spartacus. No, mettiamo online anche l'intervista a Lucy Lawless, che è la moglie di Battiato, anche lei è bravissima. Lo facciamo. Intanto ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'appuntamento al prossimo English 24.